A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Potrebbe essere forse un po' più complicata del previsto la qualificazione del Real alla finale di Coppa Campioni. Non tanto per la sconfitta di Monaco, che è certamente rimediabile, ma perché si è avuta come la sensazione che il Bayern sia davvero un osso duro, mentre il Real ha fatto fatica ieri a innescare quelle marce alte con cui si qui aveva polverizzato in molte circostanze parecchi degli avversari. Puntata calcistica in senso stretto e dunque il bentornato a Ottavio Bianchi. Buongiorno Ottavio. Buongiorno Gigi. Senti, bentornato due volte, perché nel frattempo, senza violare, oppure violando la legge sulla privacy, ma insomma in maniera concordata, Don Ottavio ha stabilito un record. Nel senso che avendo due ginocchia malandate da decenni, no? di carriera addirittura, si è fatto operare contemporaneamente a entrambe. Un bel fegato, Ottavio. Poverine, avevano dato tanto, non reggevano più. E allora era doveroso, anche perché ormai poi io le cose le faccio, sono un po' esagerato, sono stato sopra per tanti anni senza ginocchia. E adesso che con la speranza di giocare ancora. Magari. Certo, è chiaro. Adesso il tutto è sta. Intanto quando è successo? È successo una ventina di giorni fa. E i tempi di ripristino? La rieducazione è lunga, però adesso la chirurgia ha fatto dei passi talmente da gigante che già cammino, sono autosufficiente. Dai, sì. No, veramente cose inimmaginabili. Non pensa che quando io mi sono fatto male al primo ginocchio di 17 anni, i crociati dicevano che non camminavi neanche più. Penso. Certo. Dai primi anni 60 al nuovo millennio, c'è davvero un abisso per fortuna in certe cose si è andati non solo avanti, ma avanti in una maniera, si è andati nel altro che nel futuro. Senti, vabbè, allora in attesa che tu rientri in campo, certamente hai più tempo per vedere calcio, no? Mi pare. Il mio malgrado sì. Sì, il tuo malgrado sì. Che cosa hai ricavato da ieri sera, da questo Bayern Real? Ho ricavato che il Real non perde il vizio da giocare da provinciale in certi momenti, perché al di là poi dopo che ha un'impalcatura di giocatori che è talmente elevata che in una maniera o in un'altra la tira fuori, però una squadra timorosa come quella di ieri, il Bayern poi ha giocato la sua partita, non ha fatto niente di che, ha fatto la sua partita, quello che non gli riesce a fare nel campionato tedesco. Sì. Ha fatto il massimo, mentre loro hanno dato l'impressione di giocare con il freno a mano tirato, anche negli ultimi minuti hanno dato l'impressione di non uscire dalla loro metà campo, giocare sempre in maniera con queste palle lunghe, sperando nelle ripartenze di Ronaldo, tant'è che l'azione del gol che hanno fatto sul pareggio è stata un contropiede. Sì. Immagina che prendere i contropiedi vincendo 1-0 in una semifinale, in casa, certo. In una semifinale di Coppa di Campioni è tutto dio. Questo sì. È i tedeschi sì. Sono andati avanti fino alla fine. Sì. E sempre col loro gioco magari abbastanza monotono, sperando nell'inventiva di Ribéry o di Robben, però loro hanno fatto la loro gara, e quelli che hanno giocato un po' meno è stato il Real Madrid. Ma il Real Madrid è abituato a queste cose, o fa 6-7 gol, altrimenti è abbastanza titubante. Sì, non ha le vie di mezzo. Senti, hai citato Ribéry. Io il primo tempo di Ribéry sinceramente non l'ho mai visto giocare così bene, incidere così tanto in una squadra, che sia la nazionale francese o che sia la squadra di club. Sì, ha giocato tutto campo, perché di solito si sta solamente fisso nella fascia laterale, non riesce ad esprimersi. Visto che è andato a conquistare molte palle, ha recuperato, si è fatto raddoppiare, ha giocato veramente ha giocato quello che era il Ribéry prima maniera. Sì. Adesso era un po' di tempo che non si vedeva. In coincidenza lui ha fatto un grande primo tempo, mentre l'olandese il primo tempo ha giocato sottotono. Notevolmente. Poi dopo non sono stati neanche messi in particolare sotto pressione, perché devo dire che Real Madrid non li ha quasi mai messi in difficoltà. No. Loro hanno giocato sopra rito e Real Madrid ha giocato, ho letto qualche dichiarazione che in effetti Real Madrid, come il solito, come li capita in alcune occasioni, ha giocato da splendida provinciale, non si può permettere anche falli da dietro che gli sono ormai la consuetudine, che si vede solo in certi momenti di frustrazione dovuti ad una squadra media. Il Real Madrid è una delle grandi. Ti aspetti di più anche sul piano, anche sotto il pranzo, per fare dei falli. Falli brutti. Quello finale di Marcelo, poi non ne parliamo. Credo che solo l'arbitro della finale storica Spagna-Olanda, no? Con tutto quello che ha perdonato agli olandesi, credo che solo che l'arbitro lì, cioè Webb, potesse perdonare Marcelo sul fallo finale, ma già ne aveva tollerati troppi prima. La cosa che mi ha stupito del Real, di questa rinuncia, è che la difesa tedesca, correggimi se sbaglio, ma mi sembra molto statica, soprattutto centralmente, cioè ha una bella stazza, ma col cambio di passo che hanno, non parliamo di Ronaldo, ma insomma Ozil, Benzema, questi, un po' più di iniziativa, secondo me il Real poteva anche chiuderla ieri la qualificazione. Ma secondo me sì, a parte che il 2-1 è un risultato, un buon risultato, però devo dire che se il Real avesse giocato il Real con quella non avevano neanche molto filtro centrocampo i tedeschi, no, difatti, che dovevano cantar messa e portar croce, fini dicitori non ne avevano pochi. Vero. Tant'è che l'unico che tentava di fare qualcosa e che l'ha fatto molto bene è Ribéry, però è andato avanti finché ha potuto. Certo, la Bernabéu sarà tutta un'altra cosa, però l'impressione del Real non è stata da grande squadra. No, e poi comunque insomma questo non è certamente un grande risultato per il Bayern in vista del ritorno, però qualche speranza gliela dà, e io penso che dei tedeschi, cioè dei tedeschi di Monaco, con la prospettiva della finale a Monaco e un gol da difendere al ritorno prima di arrendersi, la pelle la venderanno cara. In attesa dei vostri interventi consueti all'800 24 00 24, volevo continuare con Ottavio Bianchi domandandogli come si figura, come ti figuri Chelsea-Barcellona di stasera. Ma secondo me il Barcellona fa la sua partita come al solito, giocherà sicuramente con molti passaggi a terra, con molto gioco senza, di movimento senza palla, aspettando l'inserimento e la verticalizzazione dei giocatori di grande talento che hanno, vedi Xavi, Iniesta e Messi. Il Chelsea giocherà sotto il profilo fisico, si farà picchiare contro e butterà la palla dentro in the box, come dicono loro, facendo una gara facsimile a quella dove hanno vinto con il Napoli. Certo. Non hanno alternativa, infatti hanno letto anche le dichiarazioni dell'allenatore che giocheranno in questa maniera, perché se pensano di giocarla sul piano del gioco, anche se il Barcellona quest'anno non è il solito Barcellona, ma non ce n'è per nessuno, metterti a giocare con palla a terra e con scambi, con fraseggi a centrocampo lo possono fare solo loro. Sì, certo. Loro sicuramente si fanno picchiare, sarà il solito dilemma: chi ha il possesso di palla e chi ha il dominio del gioco. Bisognerà vedere se ad arte riusciranno a dare molto, molto terreno di gioco al Barcellona, però senza farsi incidere molto in fase di 30 metri offensivi. Ottavio, io approfitto della tua presenza e soprattutto della tua lunga esperienza in panchina e ti domando, questa sosta forzata, e sappiamo purtroppo perché, a chi può aver giovato e a chi può aver invece nuociuto, per esempio tra Juventus e Milan, per cominciare? Ma secondo me un fatto del genere non esula dal fatto di chi ha giovato o nuociuto, perché sì. Di fronte a un fatto così tragico, il calcio secondo me non ha motivo di esistere, si pensa a tutto meno che alla partita di calcio. E secondo il mio punto di vista è stato giusto fermarsi un attimo di riflessione, anche per far capire che anche lo si sa da molto tempo che i giocatori non sono indistruttibili, ma anche loro, pur essendo giovani, belli, invidiati, in certe occasioni possono avere delle conseguenze come quelle di Pescara. Sono comuni mortali anche loro. Sono comuni mortali e con la fragilità di tutti. E, onestamente ti devo dire, Gigi, che a chi giova non mi è interessato, non mi sono soffermato il problema lo del credo, titolo, lo credo. Perché veramente non lascia il tempo che trovo. Sì, ma assolutamente. È sicuramente una cosa talmente grave la situazione che il calcio viene dopo, possono vincere, perdere, possono non interessa. Sai, quando si fermano in questa maniera, la ripresa, alcuni avranno recuperato, altri no, ma e chi se ne frega, in buona sostanza, certo, perché quello che è successo prima ha purtroppo tutt'altra importanza. Senti, io non posso non farti una domanda almeno sul tuo Napoli, e cioè il terzo posto o la Coppa Italia, oppure il terzo posto per restare in tensione e preparare al meglio la Coppa Italia? E guai, il terzo posto per restare per avere la tensione, guai se non fosse, anche perché Napoli quest'anno ha perso, secondo il mio punto di vista, ha perso una buona occasione per rimanere lì, certo, nei vertici alti, perché almeno è stato un campionato a giocare, come diceva il vecchio parola, Ciapanò, sono stato rilente in tutti i sensi, sia per la coppia di testa che la Juventus, pur non avendo mai perso, giocando con questo grande entusiasmo, facilitata dal fatto che può preparare una partita, e questo è determinante per questo tipo di gioco così ad alta pressione, una settimana con l'altra, però ha fatto un sacco di pareggi, di solito con tanti pareggi non vince, si vince il campionato. Certo. Il Milan, con tutti i problemi, è ancora lì a un punto. Una squadra che, come il Napoli, se avesse avuto un andamento regolare, mi sembrava abbastanza attrezzata, per dire la sua, anche nel campionato. Certo è che l'esclusione della Coppa dei Campioni in quella maniera, contro una squadra che era quasi morta a Napoli, e prendendo 4 gol in Inghilterra, insomma, ha lasciato il segno. Per non perdere l'anno, ha tutte le caratteristiche e le possibilità per giocarsi il terzo posto e per giocarsi la finale. Certo. Senti, oltre al calcio di casa nostra, che ritorna il prossimo fine settimana, io credo che questa tua convalescenza comunque sia abbastanza piena, no? Perché ricapitolo brevemente. Ieri sera Bayern Real, stasera Chelsea Barcellona, poi c'è il fine settimana che sappiamo, ma con, per gli amanti del genere, Barcellona Real alle 20 di sabato sera, poi martedì si ricomincia con Barcellona Chelsea e mercoledì con Inter, mercoledì con Real Madrid Bayern, e tutto questo con due giornate di campionato in mezzo. Secondo me tu il periodo dell'intervento l'hai scelto sapendo qualcosa. No. Il periodo dell'intervento l'ho scelto proprio perché detto che non ce la facevi più. Non sono ormai arrivato a quei livelli di autoperversione. Grazie, no, Ottavio, no. Tanti cari auguri. Grazie anche a te, ciao Gigi. Buon pomeriggio. Dunque, allora, non c'è un gran tempo adesso prima dell'intervallo per i vostri interventi, oppure vediamo se riusciamo ad ospitarne uno. Volevo farvi ascoltare qualche commento di ieri sera, perché per esempio Mourinho per una volta è stato abbastanza sportivo nell'accettare l'errore, peraltro difficilissimo da cogliere, dell'arbitro sul primo gol del Bayern, quando un giocatore del Bayern era in fuorigioco di posizione passivo, ma che però diventa attivo visto che era sulla traiettoria del tiro. Ma poi ha messo l'accento Mourinho giustamente sul questo incredibile episodio accaduto nell'imminenza della partita, visto che sono state rubate scarpe ma parecchie scarpe, Ronaldo in particolare rischia di giocare scalzo, cioè se non fosse arrivata una batteria di scarpe incredibile, gliene ha rubate tre paia, io non so con quante paia si presentino allo stadio questi fenomeni, probabilmente con un numero di scarpe superiore alle racchette che hanno i Federer o che hanno i Nadal. Sentiamo Mourinho. Io sono nel calcio da tanti anni, io ho perfettamente la sensazione di quando un arbitro arriva per fare il suo lavoro bene. Loro sono arrivati per fare il suo lavoro bene, hanno sbagliato nel primo gol che è fuori gioco, però è calcio, nessuna critica negativa. Dopo il risultato non è il risultato che volevamo, però è un risultato che lascia tutto aperto. E giochiamo a Madrid mercoledì e pensiamo che possiamo farlo. È una vergogna. A Santiago Bernabéu è impossibile che una squadra arriva e che qualcuno entra nello spogliatoio per fare quello che loro hanno fatto, una vergogna. E si riferiva per l'appunto a questo incredibile furto accaduto ieri sera all'Allianz Arena, che poi ricordo, oltre che essere uno dei più belli stadi del mondo, sarà anche il teatro della finale di Coppa Campioni. Allora, un ascoltatore campione prima dell'intervallo, da Prato ha chiamato Mario, buongiorno. Pronto? Dica. Sì, due considerazioni veloci. La partita di sera vista, diciamo per forza, perché sono blaugrana, convinto, ho visto un grande Ribéry e una marionetta che si chiama Cristiano Ronaldo. Grazie, arrivederci. Arrivederci a lei, beh, insomma, io una marionetta così in campo la vorrei sempre, comunque possibilmente la mia parte. Poi se devo scegliere tra Messi e Ronaldo so chi scegliere, ma insomma, prima di arrivare alla marionetta ci andrei pianino, perché comunque la serata storta può capitare. È vero che ad alto livello Ronaldo ogni tanto ha delle defiance, come le ha Messi, come capita a tutti, però la marionetta, come la chiama lei, ha segnato 139 gol in 138 partite con Real, quindi no, io non so che calcio segue lei abitualmente, ma se è una marionetta Cristiano Ronaldo, insomma, mi compiaccio con lei per la qualità di calcio che evidentemente da qualche parte riesce a scovare. Se parliamo invece di sfide, beh, è una situazione un po' pesantina quella del Real, ma soprattutto quella del Bayern, perché il Bayern ha 2, 4, 6, 8 giocatori sotto diffida e il Real ne ha 5, che sono Xabi Alonso, Coentrao, e non sarebbe un gran danno, Sergio Ramos, Marcelo e Higuain. E quindi, visto che la partita di ritorno si annuncia caldina, come minimo, un po' più che tiepida, queste due squadre rischiano di arrivare, se non decimate, ma comunque discretamente incomplete alla finale di Monaco. Stamane, tra le tante lettere di giornata, ne è arrivata una di un avvocato, non minaccioso, sia ben chiaro, l'avvocato Rossano Pinna di Lugano, e questo mi fa particolarmente piacere perché significa che l'ascolto di Radio 24 valica i confini, sia pur di poco, come nel caso luganese, e scrive questa lettera. Nella settima e decisiva partita di finale dei playoff di hockey su ghiaccio, giocatasi ieri sera a Berna, davanti a oltre 17.000 persone, a 2,5 secondi dalla fine dei tempi regolamentari, i giocatori dello Zurigo hanno esultato per il gol del 2-1 in mischia davanti al portiere. A quel punto gli arbitri hanno sospeso il gioco, si sono ritirati nella transenna di loro pertinenza, hanno esaminato i filmati che nel contempo venivano trasmessi anche in TV, ivi compreso quello relativo alla telecamera fissa collocata all'interno della gabbia porta. I giocatori pubblico si sono chiusi in un silenzio teso e dopo circa 2 minuti gli arbitri rientrati sul ghiaccio hanno convalidato la rete che, mancando 2,5 secondi alla fine dei tempi regolamentari, ha assegnato il campionato. Finito. 2,5 secondi dopo ha avuto luogo la procedura di premiazione e visto che si era a Berna e ha vinto lo Zurigo, non è accaduto niente. Anche questo mi pare che giustamente l'avvocato Pin lo abbia sottolineato. Gli ho soltanto risposto che sarà sempre troppo tardi il giorno che un suo connazionale, che si chiama Joseph Blatter, autorizzerà finalmente l'utilizzo della tecnologia per i gol non gol. Per le palline, per i dischi in questo caso o per i palloni entrati o meno nella rete. Alessandro ha chiamato dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, io vorrei fare 2 domande e poi dopo l'ascolto in radio. Il Real Madrid sembra che ieri sera abbia incappato in una serata storta e l'altra cura deve che allo stadio della finale gli siano state rubate tutte le scarpe. Penso che sia una vergogna dopo tutto quello che hanno detto quando sono venuti a giocare a Napoli, è una cosa vergognosa, però non so cosa hanno scritto i giornali in Europa, in Italia ne hanno dato poco conto, al contrario non so come finiva. Ringrazio, l'ascolto per radio. Sì, credo anch'io che non è vero che non abbiano dato poco conto, tant'è vero che sia qua che ne stiamo parlando, perché questa notizia è trapelata immediatamente e mi pare anche con grande clamore sin da ieri sera. Certo, lei ha ragione, se fosse accaduto a Napoli prima di Napoli-Bayern, chissà i tedeschi cosa avrebbero detto. Noi invece ne ridiamo, forse perché appunto siamo più abituati non a questa cosa specifica, ma diciamo a cosette di questo genere. Da Rimini ha chiamato Mauro, buongiorno. Pronto, buonasera signor Garazzini. Dica Mauro. Avevo un quesito rispetto al gol di ieri, il primo gol del Bayern praticamente. Sì. Ecco, e chi è che decide sull'attività o passività del giocatore in questione? Perché il guardalinee non alza della bandiera, quindi a quel punto io o non l'ha visto oppure ha deciso che quel giocatore era passivo. E se è il guardalinee che decide sull'attività e passività del giocatore sbagliando nel caso di ieri, non riesco a capire come un guardalinee tutte le volte possa azzeccarsi da quella prospettiva a individuare quanto sia o quanto non sia in fuorigioco attivo o passivo il giocatore. Mauro, io la sfido a rivedere quell'immagine a velocità normale e a cogliere il fuorigioco, cioè non se n'è accorto assolutamente nessuno, a cominciare da Casillas, perché in questi casi qua, quello che Beppe Viola chiamava, l'ho detto tante volte, l'ufficio facce, è determinante per capire se un gol è davvero irregolare o meno, oppure se l'irregolarità in realtà non è percepibile all'occhio umano. Né un solo difensore del Real e nemmeno Casillas, che ce l'ha davanti, si accorge che questo giocatore è in fuorigioco. Vuol dire che questa mischia, questo doppio rimpallo col pallone che sembrava impazzito prima della botta vincente di Ribéry è stato talmente veloce e frenetico che nessuno si è reso conto. Dopodiché, se lei mi chiede chi ha deciso, alla fine decide l'arbitro, perché il guardalinee non segnala, l'ultima parola è sua, il guardalinee non segnala, in Coppa ci sono anche gli arbitri di porta e a sua volta l'arbitro di porta non ha colto nulla, l'arbitro era nella prospettiva giusta, non tanto di cogliere fuori gioco, che in quella prospettiva lì giusta c'era invece l'assistente, ma era in condizione di valutare se il giocatore del Bayern in quel momento in posizione irregolare era o meno influente. Era influente sì, perché era sulla traiettoria del pallone. Marco ha chiamato dalla provincia di Monza, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, volevo fare un appunto del motivo per cui Mourinho non si è lamentato più di tanto sul gol in fuorigioco, perché stavo guardando adesso su internet tramite YouTube che anche il gol del Real in fuorigioco, perché nel momento in cui Ronaldo passa la palla, o Tiro, Zì, come si chiama, è abbondantemente fuori gioco almeno di 50 centimetri. Se lei ha modo di verificare lo può anche confermare poi per radio. La ringrazio Marco, non è molto il mio genere il guardonismo postumo, no? Io sono per le valutazioni a velocità normale, ripeto, ieri sera nessun occhio umano, né, e ci metto dentro soprattutto quelli dei portieri, Casillas nel caso di cui stavamo parlando prima e Neuer nel caso che lei pone adesso e che mi sembra però vagamente improbabile, nessuno dei due ha fiatato, significa che i gol erano buoni e che quindi non c'era nulla di cui lamentarsi, io la lamenterei più semplicemente così. Dunque, Pescara Livorno riprenderà il 15 maggio alle 20.45, riprenderà dal 31esimo minuto, e cioè da quello della morte di Pier Mario Morosini, e sinceramente comincio a chiedermi sin da ora con che animo, con che spirito quella sera del 15 maggio alle 20.45 queste due squadre riusciranno a ricominciare quella partita, ma così come riusciranno gli spettatori ad andarci, come insomma, ma non gli spettatori, i medici, i massaggiatori, i dirigenti. Credo che sarà davvero un momento difficile. Qui ho sotto mano, continuo ad avere uno sterminio vero di posta che insomma è riferita a questo dramma. Per esempio Mauro Carlo, e questa era arrivata già lunedì, ma è rimasta sepolta da tante altre, rivolge una sorta di prima segnala che per la morte di Bovolenta la Federazione di Pallavolo non aveva preso alcuna decisione, a differenza della tempestività della decisione della Federazione Gioco Calcio. E poi scrive una cosa finale che secondo me vale la pena di essere diffusa. Ritengo che il modo per cercare di fare prevenzione sia che ognuno di noi, in libera coscienza, cerchi di condurre una vita il più possibile sana rispettando il proprio corpo. È un modo per tenersi anche controllati facendo del bene. Questo potrebbe essere la donazione del sangue, perché lo Stato italiano prevede che recandosi a un centro trasfusionale vengano fatti i prelievi con relativi esami del sangue ed elettrocardiogramma in forma gratuita. Mi rendo conto che questo non avrebbe probabilmente evitato la morte a Morosini, ma può forse essere un modo per migliorare lo stile di vita di ognuno di noi. E per maggiore informazione, aggiunge, l'associazione di volontariato a livello nazionale per la promozione della donazione del sangue sono la FIDAS e AVIS. Questo mi sembrava una mail da leggere. Poi ce n'è una molto più curiosa, ma non priva di fascino, che arriva da Verona, che vi leggo più tardi. Silvia ha chiamato da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno, non so se perché sono arrivata a casa adesso, non so se ne abbiate già parlato, ma volevo chiedere, secondo lei la morte di Morosini, siccome qua si parla di malattie strane che sono come la SLA, i calciatori, queste morti improvvise, non è che non si voglia parlare di doping e ci sia un doping in tutti questi sport? Non so, mi chiedo, magari non ne vogliono parlare, dicono che è morto perché ha avuto un aneurisma, però secondo me c'è qualcosa. Certo, la cultura del sospetto mi pare che riguardi anche l'altra metà del cielo, no? Da quello che sento da questo intervento. Credo di poter dire che gli esami tossicologici che sono stati fatti sono negativi, anche se non esiste ancora una comunicazione ufficiale. La SLA, la correlazione tra eventuale doping e SLA è assolutamente inesistente, nel senso che non c'è traccia in tutte le ricerche che gli scienziati hanno fatto e stanno facendo in maniera sempre più accurata, non c'è alcuna relazione tra questi due fenomeni, non c'è relazione tra eventuale assunzione di prodotti dopanti da parte di chi poi è stato colpito da SLA E i casi di SLA, ma nel dubbio non si sa mai, e quindi chi per caso si è beccato la SLA è certamente un drogato. Congratulazioni. Già da prima ho voglia di leggere invece quest'altra lettera che adesso a maggior ragione mi sembra che sia, e sforiamo per un attimo con il traffico. Il 7 novembre scorso, scrive un dottore commercialista, Fabrizio Tagliabracci di Mestre, a Verona, nell'ambito di Fiera Cavalli, a un cavallo è successa la stessa cosa che è successa a questo povero calciatore. Non era un cavallo qualsiasi, era uno stallone olandese di 15 anni, già vincitore a Pechino, eccetera, eccetera. Al termine di un percorso di 1,60 di altezza, e questo povero cavallo Aistid, mi pare si chiami, si è accasciato al suolo continuando a muovere le gambe come se volesse continuare continuare a galoppare. Richiamo questo triste evento perché è identico a quello successo al povero calciatore. Anche qui i medici veterinari sono immediatamente accorsi, anche qui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Unica differenza sottolineata: insieme ai veterinari sono immediatamente entrati in campo inservienti che hanno creato un cordone sanitario intorno al cavallo, alzando un grande telo di plastica per nascondere l'agonia del povero animale agli occhi del pubblico ed evitare intralci ai sanitari. Il povero Morosini invece ha spirato in diretta in Mondovisione in mezzo a un indescrivibile casino, scrive, tanto che i familiari hanno dovuto chiedere di non far più vedere quelle immagini. Forse il mondo dei cavalli ha più rispetto verso i suoi protagonisti animali di quanto il mondo del calcio ne abbia verso i protagonisti umani. Ripeto, firmato Fabrizio Tagliabracci, dottore commercialista di Mestre, che ringrazio in maniera particolare. L'anniversario di giornata a cura di Nicola Filippone, 18 aprile. Sembra ieri. 18 aprile 1992, è sabato santo e si gioca la 29esima giornata di campionato. Il Milan di Capello soffre contro l'Inter di Suarez, ma alla fine fa suo il derby di Pasqua. Risolve all'89esimo il solito Daniele Massaro di testa su cross di Fuser. I rossoneri possono così allungare a più 6 sulla Juventus seconda in classifica, ipotecando di fatto il titolo. E non poteva immaginare un debutto migliore in Serie A il 22enne portiere milanista Francesco Antonioli. In 20 anni esatti, Antonioli ha totalizzato 412 presenze nella massima serie ed è oggi, che difende la porta del Cesena, il giocatore più anziano della Serie A. E così di anniversario ne ha beccati due in uno Nicola Filippone, perché ha beccato quel Milan-Inter per un 18 aprile 92, quindi esattamente 20 anni fa, ma ha beccato anche il ventennale soprattutto dell'esordio in Serie A di Antonioli, che oggi ha 42 anni, è il pluriveterano della Serie A. Marco ha chiamato da Caserta, buongiorno. Salve, niente, volevo... Io chiamo a cambiare un attimo argomento. Non so se ha letto l'articolo delirante del direttore di Corriere Sportivo riguardo gli scudetti della Juve del 1907-1908, campionati federali, nazionali, che sono stati dati da Pro Vercelli invece che alla Juve, di 2 o 3 giorni fa. Comunque le volevo chiedere, ma nel caso... Ma delirante chi sarebbe? Delirante perché praticamente afferma che sono dei campionati che invece di essere stati assegnati alla Juve sono stati assegnati alla Pro Vercelli, mentre in altri anni è stato fatto il contrario, comunque non lo so. Vale. E comunque volevo chiederle se nel caso la Juve vincesse il campionato e decidesse di mettere la stella sulla maglia, se la Lega nel caso potrebbe denunciare la Juve perché non si rifà praticamente all'albo ufficiale della competizione. Mi auguro di sì, se il numero 28 e 29 erano stati cancellati, mi auguro per il rispetto non della Lega, della Federazione, che la Lega non c'entra nulla, che ci siano provvedimenti e sanzioni, ma facciamo così, meglio ancora mi auguro che questo trofeo non venga esposto e non venga rivendicato in questa occasione. Cristiano Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. No, io mi auguro che lo scudetto lo vinciamo perché sono un tifoso juventino. Ascolti, no, non ho mai fatto interventi di tenore, con tenore da tifoso, però sono d'accordo anzitutto con Ottavio Bianchi sul discorso del Real Madrid un po' provinciale, ma Mourinho gioca così un po' in contropiede, l'ha sempre fatto, no? Difesa, contropiede, con qualità davanti, poi a volte va bene, a volte no. Ma secondo me, mi scusi Cristiano, però sì, non è tanto Mourinho che gioca così nel caso di ieri sera. Un po' Real, che è un po' timoroso, becchi anche la sera in cui Ronaldo non è in granché in serata, in cui Di Maria parte benissimo ma poi non arriva, insomma. Sì, poi è vero, cioè, ha ragione Bianchi, ha ragione lei, che lo spirito era un po' tanto provinciale considerando la qualità dei giocatori. Però bisogna anche vedere se i giocatori sono in vena o no. Ribéry ieri sera avrebbe forse trascinato anche il Real perché era in serata, no? Anche questa è una disamina corretta. Di sicuro il gol penso che è buono. L'amico di prima dice che è fuori gioco, ma Ronaldo passa la palla indietro. Poi invece sul discorso Juve, io non sono così convinto che la Juve corre, basta. Insomma, la Juve, insomma, corre ma gioca anche bene a pallone, triangolo stretto, sbaglia poco, insomma, cioè, è una squadra che gioca anche bene al calcio, perché quella cosa lì se la fa giustamente il Barcellona, che con le debite proporzioni gioca un buon calcio, secondo me la Juve gioca un buon calcio, e le dirò di più, gioca anche meglio del Milan secondo me, perché d'accordo gli infortuni del Milan, però un Chievo-Milan non se n'è ancora visto, insomma, la Juventus Chievo-Milan, il Milan era proprio ridotto ai minimi termini, insomma, io sono con Ottavio Bianchi, questo era un campionato almeno da Ciapanò e ci poteva stare qualcun altro, a cominciare dal Napoli con le due di testa. Dire che sia un grande campionato, no, qualitativamente no, che poi la Juventus non corra soltanto e giochi anche a calcio, credo che sia fiato da risparmiare, no? Perché sennò non sei in testa alla classifica se non giochi un calcio di almeno di buona qualità, insomma, almeno. Claudio Bologna, buongiorno. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Le volevo chiedere, chi vede favorito per questa corsa finale per l'assegnazione del titolo? Il Lecce. Mi scusi? Il Lecce. Il Lecce per l'assegnazione del titolo? No, del titolo chiaramente. Chi vedo favorito in questo momento è il Lecce. Vedo favorito il Lecce per la rimonta. Su questo sarei disposto a buttare lì una scommessina. Fermo restando che poi il Lecce avrà i guai suoi alla fine della cosa. Su Juventus e Milan non vedo favoriti. Cioè, nel senso che dovrei dire una banalità, una ovvietà tale, la Juventus ha 18 punti da disputare, ne ha uno di vantaggio, col calendario che ha, secondo me, può non perderne più alcuno. Era questo? Certo, certo. Uh-huh. E le devo chiedere, poi cosa ha la Juve, diciamo, dove si dovrebbe rinforzare la Juventus, qualora sia inferiore ancora rispetto al Milan a livello di organico, secondo lei, per il prossimo anno? E poi? Volevo sapere questo, sì. Dove avrebbe bisogno la Juventus, diciamo, come rinforza a livello di squadra. Claudio, non ne ho la minima idea, B l'ha detto lei all'inizio, mancano 6 giornate alla fine del campionato, io capisco che tutte le rubriche di calciomercato facciano danni, però insomma io lascerei finire questo e poi semmai cominciamo con calma, ma molto con calma, a parlare del prossimo. Sentiamo piuttosto come Di Matteo vive la vigilia di questo Chelsea-Barcellona di stasera. Sicuramente il ricordo del 2009 c'è ancora nello spogliatoio, però dobbiamo guardare avanti nel futuro e non pensare a quello che è successo nel passato. Sono orgoglioso di rappresentare questa società e siamo in una semifinale di Champions League ed è un'altra semifinale per questo club. Rappresenterò un pochino anche l'Italia. Chelsea Barcellona stasera in diretta alle 20.45 su Rai 1. Grazie a Franco Piantanida in redazione, a Filippo Aureggi in regia. Buon pomeriggio.